Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria oggi: pochi o minori i temi italiani in quanto a debito, giudizi e manovra. Temi italiani invece riguardano l'accordo firmato da Confindustria e sindacati, che in sostanza va a integrare quello che è l'accordo del 28 giugno scorso, a implementarlo, ne parleremo. E temi di carattere più europeo riguardano invece la Grecia. Oggi è una giornata delicatissima, infatti, per la Grecia, come ricordava anche il nostro GR, e obiettivamente non sono mancate dichiarazioni. Il ministro delle finanze Evangelos Venizelos ha detto: la Grecia sta affrontando la più grande crisi dai tempi della guerra civile. Il paese si trova in una posizione estremamente difficile ed è costretto a varare drastiche misure di bilancio che richiedono altri sacrifici statali. E pensionati nel mirino. Oggi nuove stangate fiscali sui carburanti. Ne parleremo in apertura, anche perché con la massima prudenza, con la massima scaramanzia, meglio sapere come fa uno Stato come la Grecia a tagliare in maniera così netta le sue spese e a rimettere a posto i conti. Non si sa mai che possa un domani servirci. Dopo la Grecia e i mercati, allora, sono tutti negativi. La peggiore: Francoforte meno 2,32%, Parigi perde 1,5%, Londra meno 1,60%, l'America perde lo 0,40%, FTSE MIB meno 1,30%, Fiat meno 5,70% dopo la crescita di ieri, Mediaset meno 5%, Tenaris meno 3,70%, Banco Popolare meno 3,40%, Mediobanca meno 3%, UbiBanca meno 2,5%, Diasori meno 2,20%, Unicredit meno 2% come Atlantia ed Exor. Fiat Industrial invece, quindi camion e trattori, è il miglior titolo, più 3,1%, Impregilo più 2%, L'Automatica più 1,5%, Enel Green Power più 1%. E Exor si colloca in mezzo, nel senso che Exor è la finanziaria della famiglia Agnelli che controlla il gruppo Fiat, meno 1,70%. Segnalo che altri titoli, a parte Intesa San Paolo e Unicredit, altri bancari soprattutto sono più tranquilli oggi. La Popolare di Milano perde solo lo 0,24%, la Popolare Emilia Romagna perde solo lo 0,12%, il Monte dei Paschi è invariato, euro a quota 1,3701. E allora Grecia, ma non solo, anche l'accordo appunto raggiunto tra le parti sociali, e quindi Confindustria e i tre sindacati, in via definitiva la firma di oggi, è quella che permette sostanzialmente di introdurre dei meccanismi certi per la certificazione della rappresentanza. I contratti aziendali varranno verso tutti all'interno dell'impresa se approvati dalla maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali, e la maggior forza appunto ce l'ha il contratto aziendale rispetto a quello nazionale. Si possono modificare anche a livello aziendale i contratti nazionali, insomma maggiore flessibilità in quella che una volta si chiamava la contrattazione di secondo livello, quello che riguarda l'impresa, e la legge nazionale viene lasciato il livello di cornice. So già che mi chiederete come si integra questo con invece quello che il governo ha deciso per legge, l'articolo 8. Sono due cose che viaggiano sostanzialmente in parallelo. La differenza è che questo è un accordo tra i tre sindacati e la Confindustria, firmato anche dalla CGIL, mentre l'articolo 8 ha visto la netta contrarietà della CGIL, e credo che si rivolgerà anche alla Corte Costituzionale. L'articolo 8 è diverso perché introduce il principio, è stato infilato nella finanziaria, che l'accordo aziendale firmato con la maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali ha valore, non solo può superare il contratto nazionale, ma può anche superare la legge nazionale. Questo crea obiettivamente un problema di costituzionalità. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms. Continuerà anche il viaggio nei nostri settori produttivi per vedere come reagiscono all'IVA e come reagiscono in generale alla crisi. Devo leggere però in apertura anche qualche altra notizia che riguarda il nostro paese. E non vi arrabbiate, lo dico a chi insomma, ritiene che ci sia un complotto fatto dai giornalisti, dalla finanza ebraica, dai comunisti contro questo paese. Non vi arrabbiate quando vi leggerò cosa ha dichiarato oggi il ministro delle finanze tedesco Schäuble, che non è l'ultimo arrivato, visto che la Germania è determinata per comprare il nostro debito. 349-238-6666 per notizie in breve. Prima di tutto partiamo con le headlines. Allora, scrive un ascoltatore, in un momento così delicato per l'Italia i giornali devono sostenere le istituzioni, non affossarle, vergogna. Allora, guardi, noi abbiamo sempre tifato Italia, se questo le vuole dire, sia quando parlavamo di aziende, di gare tra aziende, ci mancherebbe, tifiamo Italia sempre comunque. Secondo me i giornali non hanno il compito di sostenere le istituzioni, hanno il compito di raccontare quello che accade nella maniera più obiettiva possibile. Dopodiché mi fa piacere che lei chieda che i giornali abbiano questo motto a sostegno delle istituzioni, magari anche le istituzioni dovrebbero sostenere se stesse e non autoaffossarsi con certi comportamenti. Che dice? Oro in rialzo, 1814 dollari sui mercati asiatici, petrolio in calo 86,22 dollari. E parliamo della riunione della due giorni del Federal Open Market Committee, ossia il comitato esecutivo della Banca Centrale Americana. Ben Bernanke, che è il presidente della Federal Reserve, confermerà, le attese sono queste, i tassi di interesse americani a livello attuale. E secondo molti analisti la banca centrale potrebbe avviare la cosiddetta operazione denominata twist, che non è un ballo ma è la vendita di obbligazioni a breve termine che la banca centrale americana detiene e successivamente utilizzare i soldi che la banca centrale americana ottiene con questa vendita per acquistare obbligazioni a lungo termine. Ancora, la Banca Centrale Europea nel frattempo, alcuni di voi chiedono qual è l'effetto di un'operazione del genere. Beh, se tu vendi le obbligazioni, non so, i bot, che sarebbero da noi, i bot a un anno e compri BTP a 10 anni, beh, permetti di riscadenziare il tuo debito e quindi di porlo invece che a un anno a 10 anni, il pagamento del tuo debito, senza dover stampare nuova moneta, senza fare quello che si chiama quantitative easing, e cioè se la banca centrale si compra debito del paese, per comprarlo stampa moneta e quindi aumenta la liquidità. Se invece tu dici, va bene, questo debito di, poniamo 10 miliardi di bot a un anno, lo cambio in un debito di 10 miliardi ma di BTP a 10 anni, hai ottenuto un allungamento del debito senza dover, diciamo, utilizzare la formula dello stampaggio di moneta. Andiamo avanti. Beh, Banca Centrale Europea, prestito di emergenza di mezzo miliardo di dollari a una banca europea, non si sa chi è, molti sospetti si dirigono sulla Francia. Francia è ancora penalizzata dal sistema bancario, ha avuto bloccate alcune operazioni con la Cina, non ce lo dice la Banca Centrale Europea, ma ha prestato per la precisione 575 milioni di dollari di liquidità a una banca. Questo però la dice lunga su quanto sia difficile per le banche europee prendere in prestito dollari sui mercati internazionali. Non si fidano più così tanto i mercati internazionali delle banche europee. Tant'è che oggi il Fondo Monetario Internazionale ha detto: attenzione, la crisi del debito dell'area euro costa 200-300 miliardi, è costato dall'inizio del 2010 200-300 miliardi alle banche europee. Dei contratti firmati da Confindustria e sindacati parliamo alle 18:10. Ancora due notizie prima di passare al primo tema. Il fisco, l'economia sommersa italiana Secondo il gruppo di lavoro dell'economia che è istituito presso il Ministero dell'Economia e guidato dal presidente dell'Istat Giovannini, l'economia sommersa italiana ammonta a 255/270 miliardi di euro, cioè tra il 16 e il 17,5% del PIL. Se ne recuperassi il 10% avremmo, se solo avessi il 10% di economia sommersa in meno, avremmo 25 miliardi, cioè un intero anno di manovra finanziaria già a posto, recuperando il 10%, cioè lasciando il 90%. E poi i misteri dell'aumento dell'IVA. Adesso io lo dico senza voler polemizzare troppo con la società Autostrade, però il ritocco dell'IVA è di un punto percentuale, è dal 20 al 21%. Quello che noi abbiamo segnalato già lunedì, e già Deborah Rosciani lunedì se n'è accorta anche per le telefonate di molti ascoltatori durante Salvadanaio, stranamente i pedaggi autostradali non sono cresciuti dell'1%, no, fino al 10%, e non solo in quelli gestiti da Autostrade per l'Italia, in tutta la rete. Praticamente, invece che ritoccare di alcuni centesimi, alcuni ritocchi hanno raggiunto i 10 centesimi. I gestori si difendono dicendo che c'è un decreto interministeriale del 12 novembre 2001 che consente di arrotondare in eccesso la tariffa se gli aumenti superano i 5 centesimi. Consente, non obbliga. Consente. Lo dico perché obiettivamente la società Autostrade per l'Italia e i concessionari molto si erano lamentati con quando il governo lo scorso 13 luglio aveva introdotto la norma che prevedeva di una riduzione dell'1% annuo sulla possibilità che avevano i gestori autostradali di dedurre gli ammortamenti finanziari, e avevano detto sarà un danno enorme per noi, ci porterà in rosso, non riusciamo più a fare investimenti. Il governo questa cosa poi l'ha levata. Allora, tanto eravamo stati così simpatici nei confronti dei gestori su una norma che rischiava di penalizzare tutti gli investimenti, tutto il loro ammortamento, tanto adesso ci sembra assolutamente scorretto vedere che hanno arrotondato nella maggior parte dei casi verso l'alto, con rialzi del pedaggio fino al 10%. Forse anche il governo dovrebbe intervenire su questo, visto che sono in concessione queste gestioni. Allora, vedo sul giro d'affari 260 miliardi del nero, le tasse relative sarebbero 120 miliardi, avete ragione, immaginando di recuperare un decimo si otterrebbero 13 miliardi, e avete ragione, chiedo venia, quando sbaglio lo riconosco, almeno spero, ho fatto un calcolo confondendo l'imponibile con l'imposta, comunque se recuperassimo il 10% del nero avremo 12 miliardi, e che equivalgono a una manovra finanziaria in un periodo normale, mezza finanziaria in un periodo come questo. (Applausi) 349-238-6666 per i vostri sms, aspetto chiarimenti se ci vogliono scrivere anche i gestori della rete autostradale del perché i ritocchi siano arrivati fino al 10%. Ho capito che c'è un decreto interministeriale del 12 novembre 2001, ma consente di arrotondare in eccesso la tariffa se gli aumenti superano i 5 centesimi, non è che obbliga, per favore, in questo periodo non ci sembrava una gran mossa portare fino al 10% in più i pedaggi autostradali, anche perché poi questa roba qua si scarica sul prezzo finale della merce, perché la pagano gli autotrasportatori oltre che i privati cittadini, quindi poi la paghiamo noi due volte. Partiamo col primo tema. Una nota sugli effetti dell'abbassamento del voto da parte di Standard & Poor's. Allora, mentre il Fondo Monetario dice oggi che i rischi finanziari nell'area euro sono aumentati e il tempo sta scadendo, e dice sostanzialmente che anche l'Italia resta molto sensibile a un aumento dei costi di finanziamento, aggiunge sempre il Fondo Monetario Internazionale: l'Italia è cruciale se l'Europa vuole fermare il contagio. L'area euro potrebbe usare i fondi del fondo salvataggio per ricapitalizzare le banche più fragili, ma poi il Fondo Monetario Internazionale cosa dice? Dice che è importante che l'Italia faccia tutto quello che può per mostrare unità politica e per convincere i mercati che non ci sono problemi. Non significa, continua il Fondo Monetario, far finta che non ci siano problemi di stabilità, è necessario minimizzare le divergenze politiche per rassicurare i mercati. E poi, nel giorno in cui lo spread è tornato a un livello molto alto, la differenza tra quanto costa non indebitarsi rispetto alla Germania sta sfiorando i 400 punti, 397 punti, i CDS sono a 510, quindi il premio sulle polizze vicino, per assicurarsi contro rischi Italia, vicino a record. Standard & Poor's torna a parlare di noi. Il responsabile di Standard & Poor's, che ha abbassato il voto all'Italia, Moritz Kremer, ha detto: la politica tedesca è più efficace della politica romana. Su questo. Il governo della Germania non ha commentato l'abbassamento di voto fatto all'Italia, però il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ci ha messo la sua. Ha detto: le speculazioni contro i titoli italiani si spiegano più con i meccanismi delle decisioni politiche e meno con i fatti economici. Più con i meccanismi delle decisioni politiche e meno con i fatti economici. E allora, mentre saluto Vittorio D'Aroldi in collegamento con noi da Atene. Buonasera Vittorio. Voi. Ci senti? Sì, molto bene, voi? No, adesso bene anche noi. Parlare di Atene ci fa sempre stare un po' meglio, no? Perché sì. Anche, almeno non parliamo di noi. E grazie anche a un imprenditore che abita da tantissimi anni in Grecia. Noi continuiamo a contattare o greci che abitano in Italia perché ci lavorano, o italiani che abitano in Grecia. Gianni Livi, buonasera. Buonasera. Vi voglio far ascoltare prima una cosa, anzi due cose che abbiamo ricevuto tramite mail e che volentieri giriamo. La prima riguarda la reazione del governo all'abbassamento del voto di Standard & Poor's. Scusatemi se torno sul tema, perché vi voglio leggere cosa dichiarò la loro opposizione, quindi il PDL, quando, durante il governo Prodi nel 2006, venne abbassato il voto all'Italia sul debito. Ma siccome ieri abbiamo letto Gasparri, Cicchito, Quagliariello, tutto il mondo diciamo che diceva: questi leggono i giornali, ci abbassano il voto, vengono guidati dai PM, ci abbassano il voto, La Russa ha detto che devono smettere con queste ingerenze nella vita politica del paese. Testuale il comunicato del PDL quando l'abbassamento del voto arrivò al governo Prodi. Il governo Prodi è un governo che, bocciato dalla maggioranza degli italiani, dalla Banca d'Italia, dalla finanza internazionale, dovrebbe avere buon senso di restituire le chiavi di Palazzo Chigi prima di arrecare altri e irreparabili danni al paese. Per correttezza, quando si è all'opposizione le agenzie di rating sono sante, quando si è al governo sono qualcos'altro. E poi, per dare un po' di fiducia anche, una lettera bellissima che ogni tanto si perde. È la lettera che scrisse, anzi un discorso che tenne l'allora presidente Einaudi, il presidente della Repubblica Italiana. Ve la voglio far ascoltare perché secondo me fotografa molto bene quello che sta capitando in questo momento nel paese. L'abbiamo sintetizzata in una brevissima scheda, come abbiamo già fatto anche per quel bellissimo discorso di Bob Kennedy sul PIL. Einaudi. Migliaia di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi. Era il 1950, l'allora presidente Einaudi. Così respiriamo, viaggiamo alto invece che polemiche di bassa lega sui complotti contro l'Italia. Allora, il Sirtaki ce l'abbiamo per la Grecia? Andiamo con la Grecia. Facci la cronaca, Vittorio D'Arold. Sei ad Atene e il ministro delle finanze ha detto che la situazione è la peggiore dai tempi della guerra civile. Vittorio. Sì, esatto. Il consiglio dei ministri è ancora in corso, ma ci sono le prime indiscrezioni. Il governo starebbe preparando misure di austerità molto severe. Si parla di 28 miliardi di euro non più entro il 2015, ma entro il 2014, chiuderebbero 300. Vittorio, ti sentiamo malissimo, devi metterti in una zona coperta, non so se ci sia un problema, ma mi senti? Dicevo, stanno facendo tagli. Sì. Tagli alle pensioni, verrà aumentata un po' una imposta sulla casa che era prevista per 2 anni, arriverà a 4 anni. E poi c'è il problema che il premier Papandreou, invece di tagliare i dipendenti, abbiamo scoperto che ne ha assunti altri 20.000 dal 2009 al 2011, e quindi entro dicembre bisognerà tagliarne 20.000. E no, scusami, fammi capire, cioè, con la crisi già esplosa a marzo dell'anno scorso, la Grecia continuava a assumere dipendenti di pubblico impiego? Esattamente, questo è quello che scrivono i giornali oggi. Il Fondo Monetario ha sbattuto la porta quando ha scoperto che sono stati assunti 20.000 dipendenti, diciamo così, in deroga, e questi hanno aumentato infatti il numero dei dipendenti pubblici totali. Ecco perché i conti non tornavano. Ma ci sono 2 giorni di sciopero? Sì, esattamente, ci sono i 2 giorni di sciopero perché i dipendenti sia pubblici che privati hanno indetto questo sciopero, perché domani già i voli sono bloccati, i controllori di volo bloccheranno anche alcuni voli, insomma la tensione sta salendo. Allora, io al metro la pubblicità, poi vorrei chiedere a Gianni Livi, che lavora tra l'altro in un settore pubblicitario, se ho ben capito, pubblicità di TV, come si vive cioè questa crisi giorno per giorno, perché il racconto che noi abbiamo è sempre un racconto di carattere economico, macro, però mi interessa molto anche la quotidianità, anche proprio sul lavoro, se si è bloccato qualcosa oppure se i settori comunque cercano di tirar dritto nonostante le misure draconiane chieste alla Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms meteo. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Adesso parliamo anche di borsa. Vorrei prima concludere però l'approfondimento sulla Grecia. Una risposta la devo ai numerosi sms che arrivano. 349-238-6666 è il numero. Allora, visto che ho letto le dichiarazioni della loro opposizione, cioè il PDL, quando fu declassata l'Italia durante il governo Prodi nel 2006, alcuni ascoltatori hanno detto sì, però allora nessuno chiese le dimissioni del governo Prodi. Avete ragione, non mi risulta che qualcuno abbia chiesto le dimissioni dell'attuale governo Berlusconi per il declassamento del voto operato da Standard & Poor's. Poi ognuno può chiedere quello che vuole nella vita, ma non è su Standard & Poor's che vengono chieste eventualmente le dimissioni. Noi qua non ci siamo mai permessi. Visto che però fate questa obiezione, abbiate anche la correttezza intellettuale di ricordare che quando fu abbassato il voto al debito dell'Italia nel 2006, Prodi si era appena insediato. Qui è 3 anni e mezzo che governa Berlusconi, giusto per correttezza. Detto ciò, a chi dice che non abbiamo mai criticato le finanziarie del governo Prodi, invito a risentirsi le puntate in cui bastonammo ogni giorno la prima finanziaria di Padoa-Schioppa perché non si capiva niente giorno per giorno. Chiuso e torniamo alla Grecia. Gianni Livi, mi dà un racconto di se l'attività, il business, come si chiama in gergo, si è bloccato oppure comunque riuscite a lavorare nonostante diciamo, la situazione terribile che state vivendo? Beh, la situazione è molto grave e possiamo dire che il lavoro è sceso in maniera incredibile. Potrei dire che il lavoro in televisione è ormai l'80% in meno di quello che era poco più di un anno fa. Un 80% in meno di cosa, mi scusi, come investimenti? Genere, di produzione esterna. La televisione greca potremmo dire che è una specie di anomalia, perché ci sono tre reti di Stato, di cui una peraltro verrà chiusa ora a causa dei problemi economici, che però raccolgono un ascolto minimo intorno al 10% circa. Il grosso delle televisioni sono tre grosse televisioni private, una quarta un pochino più piccola. Le tre grosse televisioni private che appartengono a tre gruppi completamente diversi, quasi tutti gruppi editoriali, erano praticamente le vere artefici del mercato del lavoro in Grecia per quanto riguarda la produzione televisiva e la maggior parte del lavoro veniva praticamente fatto esternamente con produzioni esterne alle televisioni stesse. In gran parte erano serial, sì. Oppure altro tipo di prodotto ma similare. I serial per esempio erano non meno di, potrei dire, tra i 50 e 60 l'anno. Ma ecco, per darci l'idea, al di là del meccanismo di come funziona il mercato televisivo greco, quando lei dice l'80% vuol dire 80% di pubblicità, di raccolta pubblicitaria in meno? No, di produzione... la raccolta pubblicitaria è sicuramente calata moltissimo, è l'80% del lavoro. Del lavoro proprio, delle produzioni? Del lavoro, praticamente le produzioni sono quasi interamente fermate oppure hanno cambiato forma. Diciamo che quasi tutto quello che riguarda la cosiddetta fiction in Italia è praticamente fermo. Non c'è quasi nulla, ci sono pochissime cose. Si producono cose di bassissimo costo. Mi dice una cosa, però lei, al di là del settore televisivo, lei si sarà fatto, lo chiediamo a tutti gli ospiti che abbiamo dalla Grecia, si sarà fatto un'idea di quando sono iniziati i problemi? Alcuni ospiti ci hanno detto, ma insomma tutti lo sapevamo che i conti erano truccati per entrare nell'euro. Mi dica. No, io penso prima di tutto, sì, i conti erano truccati per entrare nell'euro, ma non credo fosse quello il momento grave. Io credo che le Olimpiadi hanno rappresentato il momento forse più importante per la crisi in Grecia, perché il costo delle Olimpiadi credo che non si sia ancora ben capito. Sono stati di un costo mostruoso le Olimpiadi in Grecia. La Grecia non era un paese che poteva reggere il peso di una grande Olimpiade. Mi dice che aria che si respira ad Atene tra i suoi amici, insomma, vorrei capire, siete tutti messi nella stessa barca? Perché sappiamo che quando poi la cinghia la stringono tutti, è brutto dirlo, ma è più facile stringerla. Se invece qualcuno la stringe e altri no, allora ti arrabbi. No, potrei dire che in linea di massima la situazione è generalizzata, perché c'è un'aria un po' strana, potrei dirle. Girando così si sente un'aria quasi tranquilla, ma una tranquillità prima della tempesta, potrei dire. Non è una. Non, è come se ancora il greco non avesse deciso cosa fare, o dare fuoco alla città, oppure lasciare tutto così com'è e vedere come va. Questo è un paese che ha avuto delle cose incredibili nell'ultimo secolo. Venizelo può dire che quella guerra civile, ma la guerra civile non è stato il peggio, c'è stata la catastrofe del ritorno dall'Asia Minore, poi c'è stata la seconda guerra mondiale, poi la guerra civile, poi i colonnelli. Devo dire che ne hanno viste veramente tante, per cui da questo punto di vista credo che non abbiano ancora deciso che cosa c'è di più grave. Che cosa di più grave? Che cosa non ci fa più. Senta, ma parlate anche dell'Italia lì in Grecia, visto che lei è un italiano. Cioè... Ieri sentendo uno dei telegiornali più importanti, di una delle televisioni più importanti in Grecia, quantomeno sul piano proprio del giornalistico, sentendo alcuni... anche un economista e un giornalista dicevano, beh, d'altronde cercano anche di tenere noi perché è molto probabile che la prossima sarà l'Italia. Andiamo bene, proprio bene. Questa non era greca, era la sorella nostra. Questa gliela posso assicurare. Vabbè, la quindi voi cioè, la vulgata in Grecia è comunque ci salveranno, perché se cadiamo noi poi il prossimo pedone, sì, grosso dal pedone si passa alla torre, diciamo. Com'è? Sì, loro pensano molto che possa essere un effetto domino. Sì, non sono gli unici a pensarlo, forse la Germania ci è arrivata un po' tardi. Vittorio Darold, le prossime tappe, perché insomma qui il piano, gli 8 miliardi, dacci le tappe, come le scadenze, diciamo, tecniche, si chiamerebbero in gergo. Ma guarda, allora qui il Consiglio dei Ministri è ancora in corso. Nel momento in cui capiremo che cosa è stato deciso, vedremo reazioni e poi dovrà essere approvato in Parlamento questa ulteriore misura di austerità. C'è il problema che a ottobre deve arrivare la sesta tranche da 8 miliardi, senza di quella a ottobre non si pagano i salari. E poi a dicembre c'è l'altro momento, che è appunto la settima tranche. Nel frattempo bisognerà che approvato tutto il nuovo salva stati, e oggi è arrivata la notizia che Papandreou è stato invitato dalla Merkel proprio alla vigilia del voto al Bundestag sul nuovo salva stati. Quindi tutto si lega, se l'Europa di salvarlo, i greci devono fare i loro compiti a casa, e a questo punto il meccanismo dovrebbe riuscire a raggiungere lo scopo. I greci però devono fare i compiti a casa, perché qua continuiamo a chiederglielo ed è un anno che la situazione non è migliorata. Gianni Livi, lei è in una posizione delicata, perché insomma se le cose buttano male in Grecia le tocca tornare in Italia, ma non è un po' il salto della quaglia? Come cadere dalla padella nella brace, non ho idea. D'altro canto non vedo molte alternative in questo momento. La Turchia? L'età è visto. La Turchia è cresciuta più della Cina, più 9% nel primo trimestre. Ma in questo momento con la Turchia e Grecia sono molto più ricorti, non so quanto poi sia conveniente. E andare a imparare da capo una nuova lingua completamente diversa dalle altre non è proprio la cosa migliore. Però voglio precisarle una cosa. Mi dica. C'è addirittura... si pensa a un'altra tassa anche, però si è divulgato un po' tra giornalisti eccetera, che siccome c'è stata una multa europea sulle discariche abusive, si pensa di applicare questa tassa sul conto dell'acqua. Ma privatizzare l'acqua o per farla pagare? No, privatizzare proprio, questo applicarla sul conto dell'acqua. Mentre la tassa per le case più ricche, quell'ICI sulla prima casa, sta funzionando, cioè vi arriverà con la bolletta, no? No, quella ancora non è arrivata a chi di dovere, è arrivata però la tassa di sostegno, quella che arriva a tutti i contribuenti. In base al reddito è arrivata già quella. Alla maggior parte dei contribuenti è arrivata e deve essere pagata entro la fine di questo mese. L'ICI arriverà entro la fine di l'ICI. Non è l'ICI, perché l'ICI di fatto si paga già. È un'ulteriore tassa sulle case. Esattamente, sì, sì. È un extra piuttosto salata, che però arriverà entro la fine di ottobre, dicono. È un po' a ruota. Grazie, in bocca al lupo soprattutto a chi in Grecia ci abita e ci deve lavorare e vivere, quindi a Gianni Livi. Vittorio Darold è in una posizione più comoda, lui comunque tornerà prima o poi in Italia. Grazie anche a Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Oh, io lo dico, si può imparare, la Grecia è la cavia in questo momento a livello europeo di come si chiede a un paese di fare un sacrificio enorme, che se lo merita anche il sacrificio, però attenzione, quando leggiamo Grecia non leggiamo solo Grecia. Meno 1,65% Milano, meno 1,60% Parigi, meno 2,5% Francoforte, meno 1,70% Londra, meno 0,26% l'America in questo momento. Traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo l'approfondimento di borsa con i migliori e peggiori. Vedo alcune domande che arrivano però al 349 238-6666 sulla vicenda Unicredit. Allora, non c'è chiaramente ancora nulla di deciso sull'aumento di capitale. Oggi il vicepresidente di Unicredit, Luigi Castelletti, ha detto: sull'aumento di capitale vedremo dopo il piano, è il mercato che detta queste regole, se una banca ha tutti i requisiti a posto, credo che chiunque possa ambire a diventarne socio. Questa è la risposta a chi ha chiesto a Castelletti se Unicredit è interessata anche all'ingresso di soggetti esteri, anche cinesi. Ricorderete poi la vicenda della quota libica congelata durante nella guerra in Libia. Ancora sull'eventuale socio cinese, salvatore cinese, si è detto favorevole Dieter Rampl, il presidente di Unicredit. Se un investitore si interessa a Unicredit e ci investe, è una cosa buona per la banca. Così il commento di Rampl. Sui migliori e peggiori in assoluto, oggi in borsa Archimedica ha fatto il 17,35% di rialzo, Sopaf il 14,70%, Marcolini il 9,86%, Aeroporto di Firenze il 9,20%, Ansaldo STS il 7,62% di rialzo. Sul fronte opposto invece Meridi ha perso il 6,53%, CDC Point il 6,35%, Fiat, l'abbiamo detto, Fiat Auto meno 6,22%, e anche le Privilegio hanno perso il 5,30%, Mediaset, come diciamo, il 5,32%. Ansaldo STS, come notate, torna a essere oggetto di speculazioni su una possibile vendita o cessione parziale di una quota comunque consistente a General Electric, tutto sempre smentito dalla controllante Finmeccanica. 349-238-6666 per gli sms. Cambiamo adesso tema, continua il nostro viaggio nei settori produttivi tra l'aumento dell'IVA e comunque il tentativo di tenere botta. Ieri, in una giornata pesantissima dopo Standard & Poor's, la notizia migliore, come ricorderete, è arrivata proprio dal nostro sistema di imprese. La produzione industriale, gli ordinativi e il fatturato sono andati bene a luglio rispetto a un anno prima, più 6,5% gli ordinativi industriali, fermo restando che tutti ci attendiamo un rallentamento ormai nel terzo e quarto trimestre dell'anno. Oggi il nostro viaggio va avanti e si occupa del settore alimentare. Non male la battuta di un ascoltatore che dice: ormai non possiamo più dire sono cose turche, ma possiamo dire sono cose greche. Comunque, il comparto alimentare italiano, il secondo settore produttivo del paese, come export, ma non solo, dopo la meccanica, significa 120 miliardi di euro di fatturato, di cui 20 miliardi, quindi un sesto, destinati proprio alle esportazioni. Se ne è parlato nel forum dei giovani imprenditori di Federalimentare a Fasano, è andato il nostro Simone Spezia a seguirlo. Chiaramente si è parlato anche dell'impatto che avrà sul settore l'aumento dell'IVA fino al 21%, e anche però le novità che riguardano la politica agricola comunitaria. Ci racconta il tutto, appunto, Simone Spezia. Dei tre parametri fondamentali, produzione, consumi e esportazione, va bene solo quest'ultima. Lo stato di salute è buono, anche se non ottimo. Le preoccupazioni per il futuro dell'industria alimentare italiana, la seconda del paese, restano intatte nelle parole di Filippo Ferrua, presidente di Federalimentare. I numeri sono apparentemente confortanti. L'export, appunto, farà segnare tra quest'anno e il prossimo una crescita di circa il 10%, ma la produzione si fermerà ad un più 0,8%, mentre i consumi interni resteranno al palo e l'aumento dell'IVA di certo non gioverà. Ci è stato detto: ma aumentiamo solo quella dell'aliquota del 20%, dove non c'è l'alimentare, dove ci sono beni di lusso. Non è vero, perché ci sono, nella liquida del 20% c'è un terzo praticamente dei consumi alimentari, sono più di 60 miliardi che quindi incideranno per 600 milioni nelle tasche dei consumatori, e dove non ci sono beni di lusso, sì, anche di lusso, ma ci sono anche beni che si consumano tutti i giorni, come il vino, come l'acqua minerale, come il caffè, il tè, insomma sono beni che il consumatore compra tutti i giorni. La chiave è l'estero dunque, con l'Europa che ormai gli imprenditori del settore considerano mercato domestico, e gli emergenti o ex tali che pur a valori assoluti abbastanza bassi fanno segnare incrementi a doppia cifra nel primo semestre 2011. Russia più 50%, Cina più 47%, Turchia più 33,8%, Brasile più 34,3%. Ma arrivarci in questi paesi non è facile. Annalisa Sassi, presidente dei giovani imprenditori di Federalimentare. Il mercato europeo, come abbiamo anche detto più volte, è il nostro mercato domestico, quindi lo stiamo dando quasi per scontato. Direi che il limite più grosso a questa capacità di esportazione è la dimensione di impresa, perché per andare su questi mercati ci vogliono persone che li percorrano e che quindi riescano a trovare gli interlocutori giusti. Quindi la dimensione di impresa è imprescindibile. Noi diciamo che le imprese alimentari devono crescere dimensionalmente, poi ci sono altri fattori tipo la logistica che diventano chiave di volta per raggiungere questi mercati. Anche qui c'è molto da fare. Ecco, dal punto di vista del raggiungimento di questi mercati è stato cancellato l'ICE, questo per voi rappresenta un problema? Sì, decisamente, perché l'ICE per molti di noi era, gli uffici ICE all'estero rappresentavano dei veri punti di riferimento, i mercati soprattutto questi molto lontani, per cui sicuramente la chiusura dell'ICE ha rappresentato un momento di disorientamento. Quello che noi auspichiamo è che rapidamente si sblocchi questa situazione di stallo che c'è attualmente e che vengano riprese o le professionalità vengano ricollocate insieme alle risorse su progetti specifici e che siano concordati con l'industria. E non è questa la sola sfida che il settore ha davanti, anzi, in gioco in queste settimane c'è molto di più. L'Europa sta discutendo la nuova politica agricola comune e l'ipotesi sulla quale si sta lavorando preoccupa. Di fatto si prevede una redistribuzione dei contributi sulla base della superficie coltivabile, il che sarebbe assai penalizzante per l'Italia, spiega Luigi Scordamaglia, vicepresidente e consigliere delegato per l'agricoltura sempre di Federalimentare. L'Italia prende circa 6 miliardi di euro di aiuto PAC, un domani continuerebbe a pagare al bilancio comunitario ma a prendere il 25-30% meno. Il vero obiettivo dei prossimi anni è avere un incremento della produzione di alimenti, quindi di produzione agricola, ad un prezzo competitivo e di elevata qualità. La PAC che si profila non risponde a questi obiettivi, cioè non premia chi produce bene e chi produce in maniera competitiva, premia invece le rendite fondiarie, premia chi ha superficie ma non valorizza questa superficie per una produzione di alimento, e questo è andare in controtendenza. E c'è qualcun altro in Europa che fa battaglia insieme a noi? Ma credo l'Italia deve necessariamente cercare degli alleati. Naturali alleati sono quegli stessi paesi che producono ad alto valore aggiunto ma che hanno una ridotta estensione territoriale. Penso all'Olanda e per specifiche situazioni penso ad un alleato come la Francia. Ma il valore aggiunto italiano e la qualità italiana è unica e quindi la sua posizione negoziale. Il ministro dell'agricoltura romano ha definito l'ipotesi europea il trionfo della rendita parassitaria. Il 12 ottobre il commissario Dacian Ciolos presenterà la proposta. Sarà allora, ha chiarito Paolo De Castro, che a Strasburgo guida la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, che inizierà la battaglia. Perché c'è anche la PAC, in effetti, la politica agricola comunitaria, fondamentale per noi, ne abbiamo parlato molte volte. L'Italia appunto ha una posizione di altissimo valore aggiunto sui suoi prodotti dell'agroalimentare e non sempre difesa da altri paesi che invece hanno produzione più di massa e meno di nicchia. Vedo molti messaggi sulla vicenda dei ritocchi autostradali. Allora, mentre molti ascoltatori segnalano anche aumenti ingiustificati tra il 7 e l'8% per quello che riguarda il caffè, il bar e altre cose, obiettivamente non riusciamo a verificarle. C'è anche chi ci chiede: ma quanti sms ricevete in una puntata? Non lo so, non li abbiamo mai contati, qualche centinaio. Ma dicevo, mentre si segnalano altri casi, la vicenda dei pedaggi autostradali è obiettivamente di quelle che fanno cascare le braccia. Perché? Perché il ritocco dell'IVA è arrivato in alcuni casi fino al 10%. Fanno notare gli ascoltatori, e hanno ragione, soprattutto sulle tratte più brevi, dove apparentemente si dovrebbe notare di meno, ma in realtà incassi di più, no? I tratti di tangenziale piuttosto che i tratti ad alto traffico. Molti segnalano sulla 4 ritocchi molto alti e anche sulla 1. Che cosa è successo? Allora, sulle piccole tratte autostradali dove si sono appunto raggiunti 10% di aumento, I gestori hanno applicato un decreto interministeriale, o meglio, si sono fatti scudo con un decreto interministeriale del 12 novembre 2001 che consente loro di arrotondare in eccesso, quindi verso l'alto, la tariffa se gli aumenti superano i 5 centesimi. Ripeto, tanto abbiamo difeso i gestori quando il governo a luglio voleva imporgli la riduzione all'1% annuo di quello che è deducibile dagli ammortamenti, quindi dagli investimenti effettuati, perché avrebbe bloccato gli investimenti nel settore. Tanto adesso restiamo perplessi, per non dire qualcos'altro, su ritocchi che in maniera molto furbesca sono stati fatti fino al 10% in assenza poi di investimenti. Allora, non so, sembra il caso di aumentare i pedaggi autostradali sapendo che quello è un principio assolutamente inflattivo, perché va ad aumentare poi il prezzo delle merci e quindi del prodotto finale, il prezzo del trasporto delle merci? Attendiamo risposte. Intanto il traffico. Ultima parte di Focus Economia. Allora, firmato, firma definitiva tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL di quello che era l'accordo sui contratti già preso lo scorso 28 giugno. Hanno partecipato oggi la Presidente degli Industriali Emma Marcegaglia e i tre segretari generali, quindi Susanna Camusso per la CGIL, Raffaele Bonanni per la CISL e Luigi Angeletti per la UIL. Sono accordi importantissimi perché vanno a modificare quello che, è, che si chiama tecnicamente il sistema delle relazioni industriali. In realtà, come vengono fatti i contratti e soprattutto quanto valore ha il contratto nazionale rispetto a quello aziendale e viceversa. Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, che da sempre segue questi temi. Buonasera Nicoletta. Buonasera. Andiamo per punti. Mi sembra che i punti siano sostanzialmente tre. I meccanismi sulla rappresentanza, cioè sapere veramente quale sindacato, quanti lavoratori rappresenta un sindacato in quell'azienda, l'efficacia di questi contratti aziendali e poi anche il rapporto tra il contratto aziendale e quello nazionale. Andiamo per punti, quindi la certificazione della rappresentanza. Allora, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene conteggiata con un calcolo delle deleghe e ci penserà l'INPS in base poi ai dati che saranno trasmessi al CNEL. Quindi comunque la cosa importante, al di là dei dettagli, che verrà misurata la rappresentatività dei sindacati per sapere chi rappresenta chi, e questo era un problema che andava avanti da moltissimo tempo, proprio da anni, e non era mai stato risolto. Il secondo punto, come dicevi tu, estremamente importante, riguarda proprio la contrattazione aziendale, e cioè che gli accordi che vengono firmati dalla maggioranza dei rappresentanti sindacali unitari o anche dalla RSA, la rappresentante sindacale aziendale prevista dallo Statuto dei lavoratori, valgono poi per tutti i lavoratori dell'azienda. Cioè, se la maggioranza La maggioranza firma, allora questo accordo vale per tutti. Anche se diciamo un 30% era contrario, però l'accordo vale per tutti. Questo l'hanno firmato i sindacati. L'hanno firmato. No, per evitare casi come quelli appunto in cui la Fiat Docet, in cui appunto ricorsi perché un 30% non aveva firmato, quindi si firma un contratto, la maggioranza detta la linea per tutti i dipendenti di quell'azienda. Ma c'è un altro aspetto molto importante che si unisce a questo che abbiamo appena spiegato, e cioè c'è un aspetto che riguarda la tregua sindacale, e cioè che non si può, fermo restando il diritto di sciopero previsto dalla Costituzione, eccetera, eccetera, non si può scioperare contro alcuni principi che sono contenuti in questo contratto aziendale. Cioè, se CGIL e CISL e UIL, insomma, rappresentati in un'azienda, firmano e il 70% dei lavoratori è d'accordo, anche se il 30% non è d'accordo, non può scioperare contro quella firma di quel contratto, capito bene? Non può scioperare contro i contenuti. I contenuti, certo. Se per esempio, non so, lo straordinario il sabato, eccetera, comunque basta il 50% sì, di 51%, uno, quindi non è il 51%, quindi la percentuale più bassa rispetto al 70 e 30, no, beh, quella sarebbe una... 50 più, non era soltanto un esempio. Comunque, in ogni caso, non ti posso operare contro i contenuti dell'intesa, diversa, perché a quel punto vale per tutta l'azienda. E questo è terzo e ultimo punto, che è quello più delicato: il rapporto, cioè la forza di questo contratto aziendale rispetto a quello nazionale. Non so, il settore metalmeccanico, settore. È la possibilità per i contratti aziendali di poter fare delle intese modificative, questa è la cosa, perché un contratto nazionale ha sempre la sua valenza, e ricordiamoci che il nostro sistema imprenditoriale è fatto soprattutto di piccole, piccolissime imprese che magari non hanno neanche il sindacato in azienda, per i quali parlare di contrattazione di secondo livello è proprio lontanissimo, per cui tutto questo vale per delle aziende che hanno comunque una certa dimensione, che fanno contrattazione integrativa, che si sta comunque diffondendo sempre di più. E la cosa importante è che si possono fare delle intese modificative, perché per carità il termine deroga in questo caso è stato cassato, ma il concetto comunque è lo stesso, delle regolamentazioni che sono contenute nei contratti collettivi nazionali. Cioè, tornando all'esempio di prima, per far capire a tutti, se il contratto del settore chimico o del settore alimentare a livello nazionale, poniamo, non prevedesse lo straordinario il sabato, poi però l'azienda singola, se ottiene la maggioranza su questo, può integrare e magari dire no, sì, da noi sono state specificate i contenuti, riguardano la prestazione lavorativa, gli orari, l'organizzazione del lavoro, in casi che possono essere di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo e l'occupazione, quindi sono stati anche indicati le casistiche, e ovviamente sono ad ampio raggio, perché l'organizzazione del lavoro, gli orari, certo, la prestazione della lavorativa in situazioni di crisi o in presenza di investimenti, quindi insomma il raggio è abbastanza ampio, e questo è estremamente importante, perché ti permette di poter puntare ad una maggiore produttività aziendale, appunto legata all'organizzazione del lavoro, e di pari passo poter anche aumentare le retribuzioni senza perdere di competitività. Certo, sulla base delle esigenze di ogni singola impresa. Visto che stiamo parlando di imprese, nel ringraziare Nicoletta Picchio, ce lo chiedete a gran voce, allora ve lo facciamo riascoltare, il discorso pronunciato proprio come elogio a chi lavora, non agli imprenditori, ai dipendenti, a tutti, pronunciato da Luigi Einaudi a un congresso economico degli anni 50, era Presidente della Repubblica, a mio avviso quanto mai attuale in questa situazione. Migliaia di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri impieghi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.